ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Il saggio Tempo scaduto giaceva abbandonato sul tavolo. Ogni giorno sotto il tavolo il mucchio dei manoscritti restituiti aumentava di volume. Per la prima volta il glorioso sonno di Martin fu interrotto dall'insonnia e lui si ritrovò a vagare in lunghe notti irrequiete. Per 3 volte Martin si recò dai Morse, ma ogni volta fu allontanato dal domestico che gli aveva aperto la porta. Brissenden giaceva malato nella sua camera d'albergo, troppo debole per uscire, e sebbene Martin fosse spesso con lui, non se la sentiva di preoccuparlo con i propri problemi. E i problemi di Martin erano molti. Le conseguenze della sortita del cronista erano state più ampie di quanto avesse previsto. Il droghiere portoghese si era rifiutato di concedergli ulteriore credito, mentre il fruttivendolo, che era americano e fiero di esserlo, lo aveva chiamato traditore del suo paese e non aveva più voluto aver nulla a che fare con lui. Anzi, il suo patriottismo era stato tale che aveva cancellato tutti i debiti di Martin, proibendogli persino di tentare di pagarli. I pettegolezzi nel quartiere riflettevano gli stessi sentimenti. Martin sentiva crescere l'indignazione contro di lui. Nessuno voleva avere a che fare con un traditore socialista. La povera Maria era piena di dubbi e di paure, ma gli rimase fedele. I ragazzini del quartiere si riebbero dalla soggezione ispirata loro dalla grande carrozza che una volta era venuta a visitare Martin e iniziarono a chiamarlo pezzente e scroccone, seppur a distanza di sicurezza. La tribù dei Silva, comunque, lo difese fedelmente, sostenendo più di una battaglia in difesa del suo onore. E così, occhi neri e nasi sanguinanti furono all'ordine del giorno, andando ad aggiungersi alle perplessità e ai dubbi di Maria. Un giorno Martin incontrò Gertrude per strada a Oakland e seppe ciò che già sapeva. D'altra parte, non poteva essere altrimenti. Bernard Higginbotham era furioso con lui per aver esposto l'intera famiglia al pubblico ludibrio e di conseguenza gli proibiva di varcare la soglia della sua casa. «Perché non vai via, Martin?» lo aveva supplicato Gertrude. «Va via e trovati un lavoro da qualche parte, sistemati un po', poi, quando questa cosa si è sgonfiata, puoi tornare». Martin scosse la testa, ma non diede alcuna spiegazione. Come poteva spiegare? Era paralizzato dall'orribile abisso intellettuale spalancatosi tra sé e coloro ai quali apparteneva. Non avrebbe mai potuto attraversarlo e spiegare a quelle persone la sua posizione sul socialismo, la posizione di Nietzsche. La lingua inglese e tutte le altre lingue non possedevano parole sufficienti per rendere comprensibile a quegli schiavi il suo atteggiamento e la sua condotta. Il loro più alto concetto di retto comportamento, nel caso di Martin, era il trovarsi un lavoro. Quella era la loro prima e la loro ultima parola. «Trovati un lavoro, vai a lavorare!» «Poveri, stupidi schiavi!» pensò Martin mentre sua sorella parlava. Non c'era da meravigliarsi che il mondo appartenesse al più forte. Gli schiavi erano ossessionati dalla loro stessa schiavitù. Un posto di lavoro era il vitello d'oro davanti al quale inginocchiarsi in adorazione. Quando Gertrude gli offrì dei soldi, Martin scosse di nuovo la testa, pur sapendo che entro quello stesso giorno sarebbe dovuto andare a trovare l'uomo del banco dei pegni. «Per adesso non ti avvicinare a Bernard, eh?» lo ammonì sua sorella. Tra pochi mesi, quando si calma, se vuoi, puoi metterti a guidare il furgone delle consegne per lui, eh? Se hai bisogno di me, mandami a chiamare ed io vengo. Non ti dimenticare, eh? Gertrude se ne andò singhiozzando, e Martin fu attraversato da una fitta dolorosa, vedendo il corpo sfatto e la camminata pesante di sua sorella. Il saggio, tempo scaduto, giaceva dimenticato sul tavolo. Tutti i manoscritti spediti da Martin a una qualche rivista ora si trovavano accatastati sotto il tavolo. Un solo manoscritto continuava il suo viaggio ed era l'opera di Brissenden, Efemera. La bicicletta e il completo nero erano di nuovo al banco dei pigni. I proprietari della macchina per scrivere stavano di nuovo rumoreggiando per le rate non pagate. Ma queste cose non preoccupavano più Martin. Era alla ricerca di una nuova direzione, e fino a quando non l'avesse trovata, la sua vita sarebbe rimasta immobile. Dopo molte settimane, accadde quello che Martin stava aspettando. Incontrò Ruth per strada. Era vero, era accompagnata da suo fratello Norman, ed era vero che entrambi tentarono di ignorarlo, e che poi Norman cercò di spingerlo via. «Se non lasci in pace mia sorella, chiamerò un poliziotto», fu la minaccia di Norman. «Lei non vuole parlare con te, e la tua insistenza è offensiva!» «Se insisti tu, dovrai proprio chiamarlo, quel poliziotto, e ti ritroverai il cognome in prima pagina sui quotidiani», disse Martin con determinazione. «E adesso togliti dalla mia strada e va a chiamare quel poliziotto se vuoi. Io voglio parlare con Ruth. Voglio sentirlo dalle tue labbra», le disse Martin. Ruth, sebbene fosse pallida e tremasse, lo fronteggiò, fissandolo con uno sguardo interrogativo. «Sto parlando della domanda che ti ho fatto nella lettera», Martin aggiunse immediatamente. Norman ebbe un moto di impazienza, ma Martin lo bloccò con una rapida occhiata. Ruth, in risposta, scosse la testa. «È una tua libera scelta?» le chiese Martin. «Lo è». Ruth parlava con voce bassa, ma ferma e decisa. «È una mia libera scelta. Mi hai umiliata a tal punto che mi vergogno di incontrare i miei amici. Non fanno altro che parlare di me, lo so. Io non ho niente da dirti. Mi hai reso davvero infelice e non voglio più vederti. Amici, pettegolezzi, falsità scritte sui quotidiani, di sicuro cose simili non possono essere più forti dell'amore. Io posso soltanto pensare che tu non mi abbia mai amato», disse Martin. Il rossore scacciò il pallore dal volto di Ruth. «Dopo quello che c'è stato tra di noi?» disse debolmente. «Martin, non sai quello che dici. Io non sono una qualsiasi...» «Lo vedi? Ruth non vuole più avere nulla a che fare con te», si intromise Norman e iniziò ad allontanarsi insieme alla sorella. Martin si fece da parte e li lasciò passare, frugando inconsciamente nella tasca della giacca alla ricerca del tabacco e delle cartine che non c'erano. Raggiungere North Oakland a piedi? Era una bella camminata. Martin non si rese conto di averla fatta finché non salì gli scalini dell'ingresso ed entrò nella sua stanza. Si ritrovò seduto sul bordo del letto a guardarsi intorno come un sonnambulo svegliatosi all'improvviso. Notò tempo scaduto che giaceva sul tavolo. Allora prese la sedia e allungò una mano per raggiungere la penna. Nella natura di Martin c'era una compulsione logica verso la completezza. Qui C'era qualcosa di non finito, era stato rimandato in favore di qualcos'altro, ma ora che quel qualcos'altro era stato completato, Martin si sarebbe applicato a quel primo compito fino a che non l'avesse portato a termine. Non sapeva che cosa avrebbe fatto dopo. Sapeva solo che aveva attraversato una fase cruciale della sua vita. Un'epoca era stata vissuta ed ora era terminata. Martin la stava rifinendo come avrebbe fatto un artigiano. Non era curioso del futuro. Avrebbe comunque scoperto in breve tempo che cosa teneva in serbo per lui. Qualsiasi cosa fosse, non aveva importanza. Nulla sembrava più avere importanza. I had an uncle named Matthew. He was his father's only boy. Born just south of Colby, Kansas. He was his mother's pride and joy. Yes, and joy was just the thing that he was raised on. Love was just a way to live and die. Gold is just a windy Kansas wheat field. And blue is just a Kansas summer sky. And all the stories that he told me. Martin lavorò per 5 giorni. Su tempo scaduto, senza mai uscire, senza vedere nessuno e mangiando quello che capitava. La mattina del 6° giorno il postino gli portò una sottile lettera il cui mittente era l'editore The Parthenon. Gli bastò un'occhiata per capire che Efemera era stata accettata. «Abbiamo sottoposto la sua poesia al signor Bruce Cartwright», continuava l'editore, «e il suo responso è stato così favorevole che non possiamo lasciarcela sfuggire». Come segno del grande piacere che proviamo nel pubblicare la sua opera, abbiamo deciso di farla uscire nel numero di agosto, solo perché il numero di luglio è già impaginato. La preghiamo di riferire la nostra stima e i nostri ringraziamenti al signor Brissenden. Per favore, ci invii a stretto giro di posta una foto e i dati biografici. Nel caso ritenesse il compenso offerto insoddisfacente, la preghiamo di telegrafarci immediatamente e di proporci la cifra che ritiene più consona. Martin, poiché il compenso offerto era di $350, giudicò inutile telegrafare. Bisognava ancora ottenere il consenso di Brissenden. Beh, dopotutto, aveva avuto ragione. Ecco un direttore di giornale che sapeva riconoscere la vera poesia quando l'incontrava. E il compenso era davvero generoso, persino per la poesia del secolo. Per quanto riguardava Bruce Cartwright, Martin sapeva che era il solo critico delle cui opinioni Brissenden avesse qualche rispetto. Martin prese un tram per recarsi in centro e mentre guardava scorrere le case e le vie che si incrociavano su quella principale, fu consapevole di provare del rimpianto, perché non riusciva ad emozionarsi per il successo dell'amico e neppure per la propria grande vittoria. Il grande critico degli Stati Uniti si era espresso positivamente sulla poesia di Brissenden. La propria convinzione che qualcosa di buono potesse apparire sulle pagine delle riviste si era dimostrata esatta, ma in lui la molla dell'entusiasmo aveva perso elasticità e Martin scoprì di essere più ansioso di rivedere l'amico che di portargli la buona notizia. La lettera di The Parthenon gli aveva fatto ricordare che durante i 5 giorni dedicati a tempo scaduto non aveva più pensato a Brissenden e neppure aveva ricevuto più sue notizie. Per la prima volta capì in quale stordimento fosse precipitato. Si vergognò di aver dimenticato l'amico, ma anche il fuoco della vergogna non era davvero bruciante. Martin era diventato insensibile alle emozioni di qualsiasi tipo, tranne quelle artistiche coinvolte nello scrivere tempo scaduto. Giunto all'hotel, Martin corse su verso la camera di Brissenden e poi corse giù. La camera era vuota. Tutti i bagagli erano spariti. «Il signor Brissenden ha lasciato un indirizzo?» chiese all'impiegato, che lo guardò con curiosità per un istante. «Non ha saputo?» gli chiese. E Martin scosse la testa. Era su tutti i giornali. Ebbene, è stato trovato morto nel suo letto. Suicidio. Ah, si è sparato alla testa. Hanno già fatto il funerale? Martin ebbe l'impressione di ascoltare la sua voce porre quella domanda, ma come fosse la voce di qualcun altro molto distante. No, dopo l'inchiesta, la bara è stata spedita via mare verso la costa orientale. Si sono occupati di tutto i legali ingaggiati dalla famiglia, disse l'impiegato. Certo che l'hanno fatto in fretta, fu il commento di Martin. Oh, non saprei. È successo 5 giorni fa. 5 giorni fa? Sì, 5 giorni fa. Ah, disse Martin voltandosi, ed uscì. All'angolo, entrò in una sede della Western Union e mandò un telegramma a The Parthenon per avvisarli di pubblicare la poesia. Martin aveva in tasca solo i 5 centesimi del biglietto per tornare a casa e così spedì il telegramma a carico del destinatario. Una volta tornato nella sua stanza, Martin riprese a scrivere. I giorni e le notti si alternavano e passavano mentre lui sedeva al suo tavolo e continuava a scrivere. Uscì di casa solo per andare al banco dei pegni. Non fece movimento. Mangiò diligentemente quando era affamato e aveva qualche cosa da cucinare, e altrettanto diligentemente ne fece a meno quando non aveva niente da mettere in padella. Continuò a lavorare in quello stato di stordimento, stranamente distaccato dal mondo che lo circondava, sentendosi come il fantasma che infestava le bardature letterarie della sua vita precedente. Martin ricordò che qualcuno aveva definito un fantasma lo spirito di un uomo morto, ma privo del buon senso necessario per rendersene conto, e per un momento si chiese se non fosse per caso morto e ignaro di esserlo. E venne il giorno in cui tempo scaduto fu finito. Un agente della ditta era venuto a prendere la macchina per scrivere e si era accomodato sul letto, mentre Martin, seduto sull'unica sedia, batteva le ultime pagine del capitolo finale. Fine, scrisse tutto in maiuscolo sotto l'ultima riga, e per lui era davvero la fine. Per metà in delirio, Martin iniziò a borbottare ad alta voce i versi di una poesia anonima che Brisinen amava citargli. Maria ascoltava con ansia fuori della porta, turbata da quel monotono cantilenare. Le parole in se stesse non avevano significato per lei, ma lo aveva il fatto che lui le stesse pronunciando. «È finita» era il tema principale della poesia. «È finita». Messo da parte il liuto, presto cessano i canti e le canzoni, come delicate ombre che scivolino tra le foglie porpora del trifoglio. È finita, ho messo da parte il liuto. Una volta cantavo come i tordi mattinieri cantano nei cespugli bagnati di rugiada. Adesso sono muto, sono come un fanello stanco. Non vi sono più canzoni nella mia gola. Ho cantato nel mio attimo di splendore. Adesso è finita. Ho messo da parte il liuto. Maria non resistette più e corse verso il fornello per riempire una zuppiera di minestra, alla quale aggiunse un bel po' di carne trita e di verdure raschiate con il mestolo dal fondo della pentola. Martin si riscosse e si sedette. Poi iniziò a mangiare, rassicurando Maria tra una cucchiaiata e l'altra, che non aveva parlato nel sonno e che non aveva affatto la febbre. Quando Maria se ne fu andata, Martin si sedette sconsolato, con le spalle cadenti sul bordo del letto, guardandosi intorno con gli occhi spenti, senza vedere nulla, finché una rivista arrotolata nel suo involucro, arrivata con la posta del mattino e non ancora aperta, fece brillare una luce nell'oscurità del suo cervello. «È The Parthenon», pensò Martin. «Il numero di agosto e deve contenere Efemera! Se solo Brisinden potesse vederlo!» Martin stava sfogliando le pagine della rivista quando si bloccò all'improvviso. Effemera era stata illustrata con un elegante capolettera e decorazioni lungo i margini nel più puro stile di Bursley. Su uno dei lati del capolettera c'era una foto di Brissenden, sull'altra una di Sir John Vereux, l'ambasciatore britannico. Un'introduzione dell'editore citava l'affermazione di John Vereux secondo la quale in America non c'erano poeti. La pubblicazione di Effemera era la conferma di The Parthenon. Si legga questo, Sir John Vereux. Ma Cartwright Bruce era descritto come il più grande critico in America ed era riportato il suo giudizio su Effemera, la più grande opera poetica mai scritta in America. Ma l'introduzione dell'editore terminava dicendo: non siamo ancora riusciti a decidere quali siano i numerosi meriti di Effemera. Forse non saremo mai capaci di farlo, ma l'abbiamo letta molte volte, meravigliandoci per la scelta e la disposizione delle parole, chiedendoci dove il signor Brissenden le abbia trovate e come sia riuscito a legarle assieme. Poi seguiva la poesia. «È una fortuna che tu sia morto, Briss, vecchio mio», mormorò Martin, lasciando che il giornale gli scivolasse tra le ginocchia, finendo sul pavimento. La banalità e la volgarità di quell'articolo erano nauseanti, e Martin notò senza emozione che non era nauseato più di tanto. Si sarebbe voluto arrabbiare, ma non aveva energia sufficiente per provarci. Era troppo intorpidito. Il suo sangue si era troppo raffreddato per potersi gonfiare nella rapida onda di marea dell'indignazione. Dopotutto, che importanza aveva? Si andava ad aggiungere a tutte le altre cose che Brissenden condannava nella società borghese. Povero Briss, meditò Martin, non mi avrebbe mai perdonato. Dopo essersi alzato con grande sforzo, Martin prese in mano una scatola che una volta conteneva fogli di carta per la macchina da scrivere. Ne esaminò il contenuto e poi ne estrasse 11 poesie scritte dal suo amico. Le stracciò per il lungo e per il largo, prima di lasciarle cadere nel cestino. Ogni gesto era privo di forza e, quando ebbe finito, si sedette sul bordo del letto, fissando davanti a sé, senza vedere. Avrebbe saputo dire per quanto tempo fosse rimasto lì seduto, finché, all'improvviso, davanti ai suoi occhi incapaci di vedere, prese forma una lunga bianca linea orizzontale. Lo incuriosì, e mentre la guardava diventare sempre più definita, capì che si trattava di una barriera corallina, fumante di spruzzi tra le bianche onde del Pacifico. Poi, lungo la linea dei frangenti, mise a fuoco una piccola canoa, una canoa a bilanciere. A poppa vide un giovane dio dalla pelle color bronzo che indossava un gonnellino colorato e teneva immerso nel mare un remo scintillante d'acqua. Martin lo riconobbe. Era Moti, il figlio minore di Tati, il re, e quel luogo era Tahiti. Oltre quella barriera fumante si trovavano la dolce terra di Papara e, presso la foce del fiume, la casa di canne del re. Il giorno stava finendo e Moti tornava a casa dopo la pesca. Aspettava che una grossa onda lo spingesse con un balzo al di là della barriera. Poi Martin vide se stesso seduto a prua nella canoa. Teneva il remo immerso nell'acqua e aspettava una sola parola da Moti per iniziare a remare come un matto. allora si sarebbe innalzato alle loro spalle il muro turchese di un'onda gigantesca. Adesso Martin non era più uno spettatore, era davvero nella canoa. Moti stava gridando ed entrambi stavano spingendo a forza sui loro remi, risalendo la ripida faccia di quella massa turchese e volante. Sotto la carena l'acqua sibillava come un getto di vapore, l'aria era piena di spruzzi, ci fu uno schianto e un rumore sordo, e poi un ruggito che echeggiò a lungo. Infine, la canoa atterrò sulla placida acqua della laguna. Moti rideva, scrollandosi via dagli occhi l'acqua salata del mare, e insieme i due remavano verso la spiaggia di corallo, dove, mentre il sole tramontava, le mura di canne della reggia di Tati scintillavano come fossero d'oro tra le palme da cocco. L'immagine svanì, e davanti agli occhi di Martin apparve il disordine della squallida stanza in cui viveva. Si sforzò inutilmente di vedere ancora Tahiti. Sapeva che tra gli alberi gli uomini stavano cantando, che le ragazze danzavano alla luce della luna, ma non riusciva a vederli. Riusciva a vedere solo la scrivania, coperta di cartacce, lo spazio vuoto dove prima c'era la macchina per scrivere, e i vetri sporchi della finestra. Martin chiuse gli occhi con un sospiro e si addormentò. Martin dormì pesantemente tutta la notte e non si mosse fino a quando non fu svegliato dal postino che consegnava la posta del mattino. Si sentiva stanco e apatico e guardò la corrispondenza svogliatamente. Una busta sottile proveniente da una rivista corsara conteneva un assegno di $22. L'aveva sollecitato per un anno e mezzo, ma ora ne notò l'ammontare senza emozione. L'antico fremito che lo pervadeva ogni volta che riceveva un assegno da un editore era sparito. A differenza dei primi assegni, questo non era gravido delle promesse di un grande futuro. Era semplicemente un assegno da $22 che gli avrebbe permesso di comprarsi qualcosa da mangiare. Nella stessa posta c'era un altro assegno, inviato da un settimanale di New York per alcune poesiole comiche accettate mesi prima. Era di $10. Un'idea attraversò il cervello di Martin, che si fermò a considerarla con calma. Non sapeva che cosa avrebbe fatto di se stesso, e d'altra parte non sentiva l'urgenza di fare qualcosa. Ma nel frattempo doveva pur vivere, eh? Inoltre aveva numerosi debiti. Non sarebbe stato un investimento redditizio affrancare l'enorme pila di manoscritti che giaceva sotto il tavolo per poterli spedire ancora una volta? Uno o due avrebbero potuto essere accettati, e ciò l'avrebbe aiutato a vivere. Decise di tentare, e dopo aver incassato gli assegni in banca ad Oakland, comprò francobolli per $10. L'idea di tornare a casa e prepararsi la colazione nella sua soffocante stanzetta gli era intollerabile, e per la prima volta Martin si rifiutò di preoccuparsi dei suoi debiti. Sapeva che nella sua stanza avrebbe potuto cucinarsi un pranzo sostanzioso al costo di 15 o 20 centesimi, ma entrò nel Forum Café, dove pranzò al costo di $2. Lasciò un quarto di dollaro di mancia al cameriere e spese 15 centesimi per un pacchetto di sigarette egiziane. Era la prima volta che fumava, da quando Ruth gli aveva chiesto di smettere, ma ora non aveva motivo per non farlo, e poi aveva voglia di fumare. E che importanza avevano i soldi? Per 5 centesimi avrebbe potuto comprare un pacchetto di tabacco d'Aram e delle cartine e arrotolarsi 40 sigarette. E allora? Ah, adesso i soldi non significavano nulla per lui, tranne ciò che potevano comprargli in quel momento. Era privo di carte e di timone, e non aveva alcun porto da guadagnare.